sepisan ngelalake ora gampang jroning ati seprene tansah kelingan yo mongko we yo mongko we ra ono wong liya ra ono aku ora bisa diganti ya mongkoe ya mongkoe ra ono wong liya ra ono liyane ra ono liyane.